Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche, come sempre, il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Come sapete, si chiama Guardie o Ladri. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlare di un tema, direi, molto interessante. Il tema è quello che riguarda i ragazzi, ma possiamo dire comunque gli adulti, gli uomini, coloro i quali, mettiamola così, soffrono di autismo. Ancora ieri parlavo di questa gabbia invisibile, come l'ha descritta una nostra radioascoltatrice Daniela Travaglio, che imprigiona le persone, le isola dal resto del mondo. Abbiamo sentito ieri la signora Travaglio che ci raccontava che il problema dei bambini, dei ragazzi che soffrono di autismo è proprio quello dell'autonomia. Abbiamo cominciato a parlarne perché? Perché in Campania, la Campania sprecona dei fondi miliardari divorati dal deficit sanitario, non sa bene ancora quanti e quali fondi destinerà alle strutture convenzionate che accompagnano in un cammino di riabilitazione i bambini, i ragazzi che soffrono di autismo. Abbiamo sentito che soltanto l'associazione, il centro che segue il figlio della signora Travaglio, in tutto ha 14 strutture e 1500 persone da seguire. Non tutte ovviamente soffrono di autismo, ma una parte sicuramente consistente c'è. Allora, visto che avremo probabilmente, ne sono certo, moltissimi radioascoltatori in questo momento all'ascolto che avranno in famiglia persone che soffrono di questo problema, io ho chiamato innanzitutto con noi a parlarne oggi Daniela Mariani Cerati, è un medico e è segretaria del comitato scientifico dell'Associazione Nazionale dei Genitori di Soggetti Autistici. Buongiorno, dottoressa Mariani Cerati. Buongiorno a lei. Quante sono le persone che in Italia soffrono di autismo? In tutti i paesi del mondo in cui sono state fatte delle indagini, risulta che il 6 per mille della popolazione soffre di una forma di autismo. Adesso si chiama spettro autistico, ecco perché, per essere più veritieri. Ecco. È una cifra assolutamente consistente. Lei ci parla di spettro autistico perché evidentemente, voglio dire, c'è un ventaglio di tipologie all'interno di questa patologia, dico bene? Proprio così, proprio perché quando si parla di autismo ci si riferisce alla prima descrizione di Kanner del 43, in cui descriveva dei bambini molto molto caratteristici, erano bambini in età scolare, tipo elementare, che avevano proprio una grave incapacità a comunicare sia con la parola che con i gesti, con il corpo, una grave incapacità nell'interazione sociale, in particolare nel gioco, che è il modo più importante di interagire socialmente dei bambini, con delle isole di capacità, ad esempio una memoria a volte eccezionale, per cui a distanza ricordavano dei versetti della Bibbia, delle poesie sentite, allora non c'è la televisione. Certo, certo, certo. Soprattutto certo. È così. Ecco, le chiedo questo, abbiamo ascoltato ieri la situazione, diciamo così, double face della regione Campania. Perché dico con una doppia faccia? Perché da una parte c'è la regione che non sa bene dove andare a pescare i fondi, dall'altra però abbiamo sentito che in questo centro vengono ben seguiti i ragazzi che soffrono di autismo con amore, con pathos, con vicinanza. Ecco, le chiedo, qual è la situazione della vicinanza delle strutture mediche ai ragazzi che soffrono di autismo in Italia? È una situazione, come dire, di tranquillità, di serenità, dove l'unico problema è, come sempre, il finanziamento, oppure i problemi sono diversi? Ci illustri un po' lei questa situazione, visto che è anche un medico. In Campania c'è molto privato convenzionato, che naturalmente l'importante è che sia di qualità, il paziente l'importante è che non debba sborsare denaro. Ecco. Certo. In altre regioni c'è il pubblico, ecco. Che cosa deve fare la sanità, che deve essere sempre in stretto rapporto con la scuola e con la società? Ecco. Allora la sanità deve innanzitutto fare delle diagnosi precoci, perché al giorno d'oggi la diagnosi di autismo si può fare a 18 mesi, 2 anni, non per tutti. tutti, per i casi più tipici, più gravi e naturalmente quelli a esordio più precoce. Certo. E perché poi serve una diagnosi? Serve per iniziare subito una terapia, che in questi casi purtroppo non esiste la terapia medica, il farmaco, esiste una terapia educativa, abilitativa, con una educazione che va tagliata come un vestito addosso al bambino, quindi personalizzata e programmata da persone molto competenti, ma poi eseguita nella quotidianità dai naturali educatori del bambino, che sono i genitori prima di tutto e gli insegnanti. Ecco. Nella nostra regione tutti vanno anche all'asilo. Ecco, lei ha toccato esattamente. Ecco, lei ha toccato un tasto fondamentale che noi abbiamo più volte toccato ogni qualvolta ci siamo imbattuti in patologie un po' particolari, e penso ad esempio ultimamente quando abbiamo affrontato con diverse puntate il tema della dislessia. Ebbene, la scuola quanto e cosa sta facendo? Ci sono delle situazioni anche qui diverse a seconda delle regioni in cui si naviga, oppure diciamo così sta crescendo la sensibilità e la consapevolezza? Allora, diciamo che nella scuola di persone di buona volontà ce ne sono tantissime, quindi non diciamo. Per esempio c'è qui nell'Emilia Romagna l'ufficio scolastico regionale che si sta attivando con una formazione per tutte le scuole in cui c'è un allievo, bambino o ragazzo con autismo. Ecco, quindi ci sono una presa di coscienza anche da parte della scuola della grandissima responsabilità che ha la scuola. Però a fronte di buone volontà isolate, anche importanti, c'è una struttura, per esempio, che rende molto difficile, la prima cosa importante è la continuità. La continuità didattica, certo. Per cui purtroppo gli interessi della categoria, diciamo, per cui io ho dei punti in più di te, tu hai cominciato un lavoro fatto bene in collaborazione con la famiglia, con l'ASL, con un bambino che sarebbe bene continuarlo per tutto il ciclo, mettiamo, no? Prima elementare fino alla quinta, no. Tutto quello che tu hai fatto deve ricominciare da capo perché prevale un altro interesse della graduatoria, e quindi una cosa proprio molto molto dannosa è questo continuo cambiamento degli insegnanti, che invece la continuità, soprattutto quando le cose vanno bene, ecco, assolutamente. Sarebbe fondamentale. Assolutamente. Ecco, vorrei chiedere un'altra cosa. Ieri abbiamo sentito dalla campagna il grido d'allarme sui finanziamenti, sui fondi, sulle strutture. Ieri abbiamo detto che non esistono strutture pubbliche in Campania, sono tutte convenzionate, quelle che seguono i pazienti di questo tipo. È un bene se c'è la qualità, è un male da altri punti di vista, nel senso che spesso purtroppo si sono avuti degli sprechi enormi di denaro, se no la situazione non sarebbe quella in cui versa la regione Campania. Ma nel resto d'Italia, dottoressa Mariana Incerati, ci sono dei problemi di finanziamento o la Campania purtroppo è una pecora nera da questo punto di vista? Diciamo che in Campania esiste molto il privato convenzionato, ecco, in altre regioni esiste il pubblico anche, con dei punti di eccellenza in cui il pubblico funziona bene e altri in cui il pubblico non funziona o funziona malino. Ecco, la cosa importante, che sarebbe molto fondamentale, sarebbe una formazione, una presa di coscienza che ancora non c'è. In altre situazioni non è che non si spenda poco, si spende molto, ma senza qualificare il personale che segue questi bambini. Ecco, ecco, che deve essere un personale molto specializzato, perché questi bambini hanno delle peculiarità, non li puoi curare o comunque diciamo curare, riabilitare, educare per analogia con gli altri bambini, perché certo. Hanno proprio delle loro peculiarità. Certo, un'ultima domanda vorrei farle, ma voi avete mai avuto, come dire, una lobby nel senso nobile del termine, quindi un gruppo di pressione trasparente e pulito presso la politica nazionale per cercare di sensibilizzare anche la politica a questo tema? guardi, c'è una cosa molto bella, perché la prima associazione che si è occupata specificamente di autismo, prima sembrava che l'autismo in Italia non esistesse, è quella di cui io sono segretaria del comitato scientifico, ANCSA, nata nel 1985. Poi nel tempo c'è stato un continuo frazionamento, un continuo fiorire di tante piccole associazioni, e quando uno è piccolo, c'è chi dice piccolo è bello, ma conta poi poco. Certo. Invece, proprio ultimamente, nel 2008, le tre associazioni nazionali che si occupano specificamente di autismo, ANCSA, Autismo Italia e il gruppo Asperger, si sono unite in una federazione che si chiama Fantasia. Fantasia, che poi vuol dire federazione, eccetera, eccetera, sì. Comunque un bel nome, insomma, Fantasia. E quindi Fantasia finalmente rappresenta un'inversione di tendenza, no? Dal frazionamento prima alla fusione Bene. In una federazione, e questo naturalmente si spera che abbia anche i suoi vantaggi, voce in capitolo, certo. Per dialogare con i ministeri e il pubblico. Benissimo, insomma. Io la ringrazio, dottoressa Mariani Cerati, per il suo intervento. Ringrazio in regia Carmelo Lauricella, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.